Strade senza nessuno, macchine ferme. Non c'è neve ancora, c'è vento, vento. Arde ancora nell'aria gelida un alberello rosso. Parlo con lui quando parlo con te. Sono in una stanza abbandonata del linguaggio. Tu sei in un'altra stanza, identica. O entrambi siamo in una via resa deserta dal tuo sguardo. Il mondo impercettibilmente si sfascia. Memoria, memoria, sgretolata sotto i nostri passi. Sono fermo a metà di questa riga non scritta. Né attenta né distratta, passi lievi più vicine. Acqua che è aria, aria che è tempo. Il giorno non finisce di andarsene, la notte non arriva ancora. Figure della nebbia a voltare l'angolo. Di questa pausa. Ascoltami come chi ascolta piovere. Senza ascoltarmi, ascoltando ciò che dico, con gli occhi aperti, verso e dentro, addormentata con i cinque sensi svegli. Passi lievi, rumore di sillabe, aria, acqua, parole che non pesano. Ciò che fumo e siamo i giorni e gli anni. Questo istante, tempo senza peso, pesantezza enorme. Ascoltami come chi ascolta piovere.